Scientia qui, mirabilis scientia decora rus eras, in sumis ducatus ut metonos sublimatus facumes rus eras, in paris thank you. senza figur, d'amore soffri e s'avalur, l'alma muendo, cagliar non tempus passi, tu tes consolé, da fue, merci se vuoi pesima, Oh, okay. Oh,